Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, siamo pronti per partire e subito il nostro sommario. Emicrania, oggi decido io. Autopalpazione del seno, il primo gesto per la prevenzione. I numeri del glaucoma. Emicrania, parliamo della forma più diffusa e invalidante di mal di testa. Se la conoscete bene, restate con noi perché insieme ai nostri ospiti oggi proveremo a trovare i rimedi per venire a capo di questo problema. In linea con noi abbiamo il professor Fabio Frediani, direttore dell'unità operativa di neurologia e centro cefalee Policlinico San Pietro a Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, tutti la conoscono per esperienza diretta o indiretta. I dati dicono infatti che interessa il 10-15% della popolazione. Noi donne in particolare la conosciamo bene, ma nonostante la diffusione e la popolarità, questo disturbo viene spesso confuso con altre forme di mal di testa. Ce ne sono più di 200 tipi, quindi è facile cadere in inganno. Allora, dato che l'emicrania sarà la protagonista della nostra puntata, io, professore, proverei a chiederle un aiuto per descriverla bene. La parola emicrania già di per sé ci dà qualche indicazione, ma non basta, professore. Certo, sicuramente già il nome ci fa intuire come emicrania sia un dolore che interessa nella maggior parte dei casi, direi metà del capo. Sì. Ma l'emicrania non è solo questo, l'emicrania non è soltanto dolore, ci sono altri disturbi, altri sintomi che accompagnano l'emicrania. Il dolore innanzitutto ha delle caratteristiche particolari, è un dolore di solito martellante, pulsante, come viene definito, si accompagna a disturbi di tipo gastrointestinale, per cui nausea, si può arrivare fino al vomito, a volte anche vomito ripetuto più volte. E poi un'altra caratteristica assolutamente costante dell'attacco emicranico è l'intolleranza a qualsiasi stimolo. Il paziente emicranico è un paziente che mal sopporta durante l'attacco soprattutto la luce, gli odori, i rumori, non sopporta muoversi, per cui richiede alcune precauzioni, starsene fermo a letto, al buio, eccetera. Ecco. Credo che questa è un po' la fotografia. Esatto. Se si mettono insieme questi elementi, non è così difficile pensare di avere un attacco di emicrania. Ricordo il nostro numero verde per intervenire in diretta, 824 0024, e come sempre il numero per inviare i messaggi, 349 238 6666. Essere benessere è radio24.it, invece se siete più comodi a inviarci un'email. Professor Frediani, io vorrei però dare subito due buone notizie, che credo sia importante dare per un po' sollevare gli animi. Spesso gli emicranici vivono il loro disturbo con penose passiva rassegnazione. Una buona notizia riguarda la terapia? Sì, certo, perché oggi, ma non soltanto oggi, ma soprattutto negli ultimi anni, abbiamo a disposizione una serie di preparati farmacologici e non solo, che possono dare sicuramente un notevole sollievo. I farmaci bisogna poi distinguere, perché ci sono farmaci sia per l'attacco, quindi quando arriva il dolore, prendere qualcosa che te lo fa passare, ma ci sono soprattutto dei farmaci che, se impiegati in maniera attenta, controllata e soprattutto adeguata a quella che è la situazione, possono dare dei vantaggi sia sul numero di attacchi che sull'intensità stessa degli attacchi. L'altra buona notizia, professor Frediani, riguarda un po' il tempo che passa. Con gli anni l'emicrania infatti dovrebbe, almeno si dice, voi lo sostenete, tende a diminuire un po', o sbaglio? No, ha perfettamente ragione. Questa è una buona notizia, anche se il rovescio della medaglia è che purtroppo l'emicrania è una patologia che colpisce il soggetto quando è nel pieno della sua attività. Sì. Per cui dai 20 ai 50 anni si ha il massimo di numero di attacchi, poi col tempo piano piano si ha un po' una diminuzione e un miglioramento spontaneo nella maggior parte dei casi. Questo non è sempre vero, ma poi eventualmente vediamo in dettaglio certo, quali possono essere altre situazioni. Avremo modo anche di, grazie alle telefonate dei nostri ascoltatori, ad andare proprio nel dettaglio. Ricordo 824 0024, questo è il numero verde per parlare oggi insieme ai nostri esperti di emicrania, ma intanto ci facciamo aiutare dalla nostra scheda a raccogliere quali sono quelle che sono le indicazioni importanti da riferire ai nostri esperti per farci dare una mano. Con che frequenza l'emicrania ti viene a trovare? Una o più volte alla settimana? Due o tre volte al mese nei fine settimana? Si fa annunciare o arriva all'improvviso come un ospite indesiderato? Quanto dura in media la sua visita? Poche ore? Qualche giorno? Oppure se ne va e poi ritorna presto? Porta dei regali con sé come nausea, sensibilità alla luce, irritabilità o viene a mani vuote? L'analgesico le fa fare in fretta le valigie o devi chiuderti in una stanza al buio e aspettare che decida di andarsene? Professor Frediani, vuole aggiungere qualche precisazione, un dettaglio? Ma direi che questa scheda ha riassunto in pochissime parole quelle che sono le caratteristiche essenziali dell'attacco emicranico. Una cosa importante, secondo me, è l'aspetto psicologico che comporta essere emicranico, no? Perché i pazienti lo sanno bene, quello che spesso ti distrugge non è tanto l'attacco di per sé, che comunque poi in qualche modo con farmaci cioè spontaneamente passa, ma è l'attesa, no? Quando si diceva all'inizio si fa annunciare o arriva come un ospite indesiderato. L'attesa dell'ospite indesiderato spesso è quella situazione che psicologicamente ti metti in una condizione di non dico di sconfitto, ma ti metti in una condizione per cui incominci a modificare la tua vita, incominci a dire ma magari domani sera avrei questo impegno, però non se potrà, mi viene l'attacco certo, non ci ti vado. Condiziona. Ti condiziona, esatto, ti condiziona fino ad arrivare proprio a un'invalidità vera e propria dal punto di vista di funzione, nel senso che uno non fa più una vita normale. Professore, rispondiamo subito ad Anna da Bolzano che ci scrive: mal di testa pulsante dietro la nuca che si intensifica molto quando ci si alza dal letto, dalla sedia, è emicrania? Il fatto che sia pulsante potrebbe essere una traccia. Sì. La sede non è caratteristica, perché un dolore posteriore non è tipico per l'emicrania, però potrebbe essere. In ogni caso, un dolore di questo tipo diventa importante in alcune situazioni. Voglio dire, se un paziente ha un dolore che si ripete con queste caratteristiche da 10, 15, 20 anni, probabilmente non è nulla di preoccupante, ma se uno non ha mai sofferto di mal di testa e incomincia ad avere un dolore posteriore pulsante da pochi giorni o da poche settimane, in questo caso credo che si debba ricorrere rapidamente a un consulto medico per quantomeno per indagare e definire bene la situazione, però potrebbe essere un attacco di emicrania sicuramente. 824 0024, continuate, lo state facendo al 349 238 6666 a descrivere la vostra emicrania per trovare indicazioni e consigli. Insomma, oggi, come abbiamo detto nel titolo, a proposito di emicrania, decidiamo noi con consigli preventivi, terapie e tutto quello che c'è di nuovo. Una mela al giorno. Adesso mi rivolgo in modo particolare alle nostre ascoltatrici, perché torniamo ad occuparci della salute del nostro seno. I medici continuano a ripetere, lo facciamo anche noi, una diagnosi precoce salva in molti casi la vita. Noi oggi parliamo di autopalpazione del seno. In linea con noi abbiamo il dottor Corrado Tinterri, che è responsabile della senologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Dottore, allora iniziamo subito con il dire che l'autopalpazione del seno non deve sostituire una visita senologica o gli esami di routine, ma deve essere fatta dalle donne. Possiamo considerarlo come uno strumento che abbiamo tutte noi a disposizione per conoscere meglio il nostro seno e per quindi evidenziare, accorgerci di eventuali cambiamenti. Dottore, è così? Certamente è così. Il fatto di avere consapevolezza, di guardarsi, di curarsi, di valutare cambiamenti del proprio seno è molto importante. È molto importante perché ovviamente teniamo conto che dai nostri dati della FONCAM, cioè della Forza Operativa Nazionale per il Cancro della Mammella, nel 60% dei casi ancora oggi sono le donne che si accorgono per la prima volta di avere un qualcosa che non va, un nodulo al seno. Quindi il concetto di autovisitarsi, l'autopalpazione è certamente molto importante. Come diceva lei, è la consapevolezza di curarsi, e proprio per questo le donne che si accorgono spesso da sole di un tumore al seno sono anche quelle che a volte guariscono meglio, quindi la probabilità poi anche con l'autopalpazione di trovarsi un nodulo tanto più piccolo è ovviamente meglio. Giustamente, come ha detto lei, rimangono importanti i cardini della prevenzione strumentale, che sono l'ecografia o la mammografia a seconda dell'età della donna, ma certamente l'autopalpazione è un momento sicuramente da consigliare e da fare anche in un modo adeguato. Proviamo allora, dottore, a impararlo per bene. Certo, diciamo che ci sono due momenti nell'autoesame o nell'autopalpazione, come ha detto lei, del seno. Una prima fase che consiste semplicemente nel mettersi di fronte allo specchio. Questo da farsi regolarmente nelle donne in premenopausa, nelle donne diciamo così in età fertile, è consigliabile farlo nei primi giorni in seguito al flusso mestruale, sì, quando il seno è meno doloroso, il seno diciamo così si presta meglio ad una valutazione. E quindi una donna posta di fronte allo specchio valuta regolarmente se cambia qualcosa proprio dal punto di vista del proprio essere. Lo fa attentamente, guardando in modo particolare se ci sono delle deformità, se ci sono delle aree di arrossamento, se ci sono dei rigonfiamenti. E questo lo può fare anche alzando poi le braccia verso l'alto. Questo perché? Perché tendendo la cute, se c'è una struttura all'interno che può trascinare, che può stirare all'interno la cute, questo si evidenzia con delle fossette che si formano al di sopra dello strato cutaneo. Quindi questo è un segnale che più che con l'autopalpazione si fa con l'autoesame visivo, questo sì, è molto importante. Questo lo si fa anche ponendo poi le mani sui fianchi ed esercitando una pressione dei muscoli pettorali, facendo contrarre i pettorali, si può esercitare anche qui una trazione cutanea che può mettere in evidenza questo tipo di retrazione. Una volta fatto questo, poi si passa all'autopalpazione, che consiste nel mettere rispettivamente o il braccio destro o il braccio sinistro dietro la nuca, e con il braccio controlaterale si comincia un autoesame, una palpazione in senso circolare, cercando di valutare se c'è qualcosa di nuovo rispetto al controllo del mese precedente e valutando se si sente qualche tumefazione o qualcosa. Lo si fa prima da una parte e poi dall'altra, sì, e poi lo si fa successivamente anche sdraiandosi sul letto, meglio con un cuscino sotto la testa. Quindi ogni cambiamento, ripeto, rispetto ad un regolare controllo mensile deve ovviamente non dico allarmare la donna, ma certamente valutare. Un invito a parlarne con il proprio medico. Assolutamente. Ripetiamo, dottor Tinterri, anche gli appuntamenti, le cadenze con cui dobbiamo effettuare e a partire da che età gli esami, quindi ecografici, la mammografia e l'ecografia mammaria? Certo, parliamo della stragrande maggioranza delle donne nelle quali non esiste, diciamo così, una familiarità molto forte. Sì. Si identificano nell'ambito di quelle sindrome ereditarie che per il tumore della donna però devo dire non sono più del 5-7% dei casi. Diciamo nella donna comune che non ha una spiccata familiarità, noi in genere consigliamo dall'età dei 30 anni una visita senologica regolarmente insieme a un'ecografia tutti gli anni. Dai 40 aggiungiamo una mammografia ogni 15 mesi al massimo, sempre accompagnata dalla visita senologica che appunto noi consigliamo regolarmente annualmente. Questo per il resto della vita. Certo, per il resto della vita. Ecco, certo. Questo mi piace che lei l'abbia sottolineato, perché molte donne arrivano ad una certa età e dicono ormai dal ginecologo non vado più, dal senologo ormai dove quello che... No, si sentono protette. Invece i controlli devono proseguire. Certamente, per sempre. Anche oltre i 70 anni. Anche oltre i 70 anni. La vita media delle donne ormai è di 87-88 anni, quindi di fatto assolutamente la possibilità, diciamo così, di ammalarsi di un tumore al seno aumenta con l'età, quindi verosimilmente dobbiamo incrementare i controlli anche dopo i 70 anni. Grazie dottore per essere stato con noi, buona giornata. Arrivederci a voi. Pronto soccorso. E torniamo ad occuparci del tema del giorno. Oggi parliamo di emicrania, è un nostro problema, abbiamo sofferto almeno una volta, due nella vita, e tutti ci siamo chiesti il motivo o abbiamo cercato, insomma, di trovare una spiegazione. Professor Frediani, voi invece una spiegazione ce l'avete? Certo, per l'emicrania oggi conosciamo sicuramente molto più rispetto a soltanto 20-30 anni fa. Sappiamo qual è il meccanismo, sì, perché gli studi ci hanno consentito di entrare fra virgolette all'interno della nostra testa e vedere che cosa succede quando l'attacco di emicrania parte. Quindi è una cosa difficile quella che sta per spiegarci o riusciamo? È una cosa sicuramente per addetti ai lavori, ma dato che nella mia attività quotidianamente i pazienti mi chiedono queste spiegazioni, cercherò... Sei attrezzato, va bene, esatto. Allora siamo pronti. Direi di renderla quantomeno comprensibile. Che cosa succede dentro la nostra testa? Noi abbiamo un sistema di dolore, un sistema che informa il nostro cervello, la nostra corteccia cerebrale, che sta succedendo qualcosa in qualunque parte del corpo, e questo vale anche per la testa, per la faccia, per gli occhi e quant'altro. Questo sistema, che è fatto da cellule, neuroni che in sequenza una con l'altra portano l'informazione, è controllata nel nostro cervello da tutta una serie di circuiti complessi che formano il cosiddetto controllo antinocicettivo. Quindi c'è la nocicezione, cioè la percezione del dolore da una parte, e il controllo di questo dolore dall'altra. Sì. Lo squilibrio di questi due sistemi produce l'attacco. In particolare sono implicate alcune sostanze, non sto a entrare nei termini tecnici, ma sono dei neurotrasmettitori. Sicuramente tutti avranno sentito parlare di serotonina, perché se ne parla da tantissimi anni. Sì, è famosa ormai la serotonina. È famosa, ormai chi soffre di mal di testa sa che deve fare i conti con la serotonina, sì, ma non solo con quella. Sicuramente la serotonina è stata un po' l'apripista, no? Perché sì, indagando la serotonina si è scoperto il suo ruolo in questi circuiti e si sono sintetizzati dei farmaci che agendo proprio sui meccanismi serotonino-dipendenti oggi sono estremamente efficaci nel controllare il dolore. Abbiamo però anche altre sostanze e abbiamo, anche se sono attualmente in fase di sperimentazione, nuovi farmaci che agiscono su queste altre sostanze che ci lasciano ben sperare per il futuro. Bene, più capite dell'emicrania, più riuscite a darci degli consigli, a darci degli strumenti per, se non dico proprio non farcela più incontrare, ma rallentare la frequenza degli attacchi e soprattutto il dolore. Abbiamo Renato da Milano che ci chiama all'800 24 0024. Renato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo sinteticamente chiedere al professore, io ho un figlio di 17 anni, sì, e da quando era bambino praticamente soffre ogni tanto di si sveglia al mattino oppure durante la notte così con una nausea e un mal di testa, lui dice mal di testa. E ho fatto fare vari accertamenti. Immagino. L'ultimo è stato un elettroencefalogramma e siamo in attesa di fargli fare una risonanza magnetica. Addirittura mi ha detto che doveva fare una visita neurochirurgica, non so adesso, io non... Neurologica non forse? Queste cose. Neurochirurgica mi ha detto proprio. Perché, e voglio sapere, sì, appunto, scusi, finisco, e gli viene, vede come le piccole stelline, aura si chiamano, una cosa del genere, un termine che io non conosco direttamente. Però l'hai imparato bene, Renato. Chiediamo al professor Frediani. Professore, anche i ragazzi soffrono di emicrania. Sì, l'intervento del nostro ascoltatore ci dà l'opportunità di aprire un campo che è enorme di per sé e richiederebbe ore e ore solo di discussioni oltre agli approfondimenti, perché ha toccato almeno tre aspetti. Il primo è quello dei ragazzi. I ragazzi hanno degli attacchi emicranici, possono averli e possono averli la maggior parte delle volte con caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle degli adulti, per cui richiedono un'attenzione particolare. Il secondo aspetto è quello degli accertamenti, sì, che indagini fare. Sì. Io ai miei pazienti tendo a dire sempre che l'emicrania è una malattia che si riesce a definire, a scoprire con un'attenta anamnesi, quindi il colloquio medico-paziente è fondamentale. Sì. Noi stessi impariamo più forse dai pazienti che non dai testi. E il terzo aspetto che ha toccato è quello dell'aura. Sì. L'aura emicranica è la definizione molto semplice, è questa: è qualunque fenomeno neurologico, anche se nel 90% sono dei fenomeni visivi, come appunto nel caso del ragazzino, sì. Esatto, sono dei fenomeni visivi che durano da 5 minuti fino al massimo di un'ora, mm-hmm, e precedono il mal di testa. Alcune volte lo possono accompagnare, ma la maggior parte delle volte lo precedono. Direi che la diagnosi di emicrania con aura di per sé è una diagnosi abbastanza semplice. Se poi viene corredata con una attenta visita neurologica, potrebbe non essere necessario alcun altro accertamento. Questo soprattutto quando gli attacchi sono tipici e quando si ha magari una storia lunga e quando c'è una familiarità. Certo. Questo professore, lei ha detto una visita neurologica, mentre il nostro ascoltatore dice che gli è stata richiesta una visita da un neurochirurgo. Il neurochirurgo, a meno che non sia un neurochirurgo che si occupa in particolare di dolore, sì, anche di emicrania, ma in realtà l'emicrania non è una patologia chirurgica, sì, per cui il neurochirurgo non è indicato. Sì, può essere indicato se il mal di testa è il primo sintomo, ma non malattia emicranica, ma mal di testa come sintomo di un'altra malattia, e facendo delle indagini emerge qualcosa, certo, che possa essere di interesse chirurgico. Eccoci di nuovo insieme, oggi parliamo di emicrania, parleremo dei fattori scatenanti, dei fattori di rischio, incriminati alcuni alimenti, chi soffre di emicrania lo sa bene, ma anche lo stile di vita, ma soprattutto cercheremo di darvi consigli quando l'attacco compare all'improvviso, che cosa fare, come comportarsi, se invece gli attacchi sono sempre più frequenti, quando i normali analgesici non funzionano più. Quindi chiederemo al professor Frediani di darci proprio un aiuto concreto. Ma adesso voglio dare la linea al professor Leonardo Mastropasqua, che è direttore del Centro di Eccellenza in Oftalmologia dell'Università d'Annunzio degli Studi di Chieti Pescara. Buongiorno professore. Buongiorno dottoressa. Professore, io sono qui con lei per comunicare ai nostri ascoltatori i risultati di controlli che voi, come l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità e l'Unione Italiana Ciechi, avete svolto in occasione della giornata della vista il 9 ottobre scorso e nel weekend successivo. Credo che sia importante darlo, perché tante volte quando la nostra vista non dà problemi, noi dalla nostra vista ci dimentichiamo. Insomma, se i nostri occhi vedono bene, di loro ci dimentichiamo. Invece è importante, comunque, lo ripetiamo sempre, sottoporsi a dei controlli regolari anche quando e soprattutto quando ci vediamo bene. Professor Mastropasqua, che cosa è emerso da questi controlli? È assolutamente vero quello che dice lei. Infatti in 34 città dove sono state fatte visite oculistiche gratuite dall'Agenzia Italiana Internazionale per la Prevenzione della Cecità, su un campione di circa 6.000 persone, si è evidenziato che in 1.200 casi c'è una pressione troppo alta presa con uno strumento particolare che è il tonometro a soffio. Di questi, meno dell'1% era già in cura per glaucoma, perché lei sa che il glaucoma è un aumento della pressione dentro l'occhio che, se non curato, porta alla cecità. È il ladro silenzioso della proprio vista. Perché è vero, professore, non dà sintomi. Purtroppo no. Se non quando silenzioso. Certo. Quando è troppo tardi. Quindi l'invito è: noi non controlliamo generalmente, non andiamo dall'oculista, quindi non abbiamo modo di controllare la pressione oculare, che invece è assolutamente importante perché può evidenziare la presenza di un glaucoma. Professore. Giustissimo, perché purtroppo la pressione, ripeto, non dà sintomi, quindi bisogna, in modo particolare chi ha familiarità o chi ha più di 40 anni, fare una visita l'anno dove l'oculista curante deve rilevare la pressione dell'occhio e lo spessore della cornea, che oggi è fondamentale, e in secondo momento, se trova dei problemi, fare uno studio del nervo ottico ed un campo visivo. Professore, grazie per essere stato con noi, prenderemo nota, quindi occupiamoci sempre della nostra vista e non solo. Grazie professore. Arrivederci. Buona giornata. Buongiorno. Professor Frediani, sì. Gli emicranici sanno bene che alcuni cibi possono in qualche modo scatenare l'attacco, così alcuni tipi, anche un determinato stile di vita. Sappiamo che ad esempio durante il weekend tante persone fanno i conti con degli attacchi di emicrania prima di andare proprio a consigli mirati, quando si sviluppa l'attacco, quando l'attacco ritorna, quando l'analgesico non funziona più. Facciamo un po' un elenco delle cose da evitare. Sì, volevo aggiungere alla cosa che detto lei adesso, che è importantissima, sì. Rilacciandomi al discorso che abbiamo fatto prima sui meccanismi, non sappiamo qual è la causa, perlomeno non sappiamo quale sia il primum movens che dà il via a tutto. Quello che però si è visto è che su questi circuiti che avevamo visto prima, che erano disregolati, i fattori scatenanti che adesso andiamo a vedere sono quelli che danno un po' il là, che fanno partire. Questo il paziente emicranico lo sa molto bene, lo sa molto bene, tant'è che piano piano impara nel corso della propria malattia, nel corso della propria vita quotidiana, impara a riconoscere in primo luogo e poi piano piano a evitare, ove possibile, o comunque a fare a mettere in pratica uno stile di vita che cerca di evitare questi fattori scatenanti. Esatto. Quali sono? Il principale sicuramente è lo stress. Spesso si dice che l'emicrania è una patologia dei giorni nostri ed è vero, perché il tipo di vita che noi conduciamo ci porta a degli squilibri, corriamo tutto il giorno e poi all'improvviso ci rilassiamo, cambiamo completamente stile di vita nell'arco di pochi minuti e questo può essere un fattore che scatena. Chi soffre di attacchi di emicrania nel weekend sa bene che purtroppo è quasi come se fosse condannato a continuare a lavorare o comunque a continuare a essere attivo anche nel fine settimana, rinunciando quindi a dormire quell'ora in più, perché spesso chi dorme di più, non soltanto chi dorme di meno come molti credono, si alza con mal di testa con l'emicrania. Esatto. Quindi, paghiamo lo stress, quindi però siamo tutti un po' vittime dello stress, dovremmo scalare un po' la marcia, professore. Sì, imparare a dosarsi probabilmente, imparare piano piano che poi le cose si riescono a fare ugualmente anche senza correre dietro a tutto. Al di là dello stress ci sono altri fattori che magari sono controllabili più facilmente, ad esempio quelli alimentari, come già accennato. La lista dei cibi che possono dare mal di testa è lunghissima, infinita, ma in realtà esistono 4-5 alimenti che più facilmente di altri possono dare mal di testa. Ne cito alcuni: il cioccolato, l'alcol, i formaggi stagionati, gli insaccati, i conservanti, ecco. Perché danno mal di testa? Non è un meccanismo allergico come molti pensano, ma è un meccanismo proprio biochimico, cioè questi cibi contengono delle sostanze che vanno a interferire con quei famosi circuiti che dicevamo prima e quindi andando proprio li mandano in tilt. Insomma, si possono evitare, assumere con moderazione, professore, diciamo così. Lei dice evitare proprio? No, assolutamente, io dico esattamente il contrario. Ah, meno male. Vedo molte volte i pazienti che vengono quasi intimoriti, non prendere questo, non prendere quello. Non ha molto senso tutto questo, ha senso che ogni paziente di per sé cerchi di capire fra questi cibi qual è quello che in effetti a lui e soltanto a lui può dare mal di testa. Perché quello che dà mal di testa a me magari non lo dà a lei e viceversa. Certo. Allora, e in questo senso l'emicrania è una malattia che si modella un po' su ogni paziente, no? E facendo in questo modo si riesce sicuramente a riconoscere qual è l'alimento in causa e riducendolo o cercando di stabilire qual è la soglia. È chiaro che se io mangio un cioccolatino non alla sera, la mattina dopo non avrò mal di testa. Certo. Ne mangio 2-3 etti. È la quantità che può fare la differenza, sicuramente. Esatto. Professore, darei la linea alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, in modo che cerchiamo di individuare sulla base proprio delle loro telefonate dei consigli per le persone che si ritrovano un po' descritte dal profilo. Maria Stella ci aiuta chiamandoci dalla provincia di Milano all'800 24 0024. Maria Stella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. buongiorno. Diciamo che io sono una cefalgica da anni, da quando forse avevo 22-23 anni, ora ne ho 64. Sì. Una volta l'avevo costantemente tutti i giorni, prendevo qualsiasi cosa, dovevo stare a letto perché avevo nausea, vomito e tutto. Dopo circa 10 anni fa mi hanno trovato, che non posso dire i nomi, due prodotti. Uno è a base di sumatriptan, se non lo dico se ho sbagliato, e questo perché avevo la cefalea che anche mi veniva di notte se dormivo sopra il capo. E se mi alzavo, me lo massaggiavo e non stavo a letto, se ero fortunata mi passava. Con magari altri analgetici, altrimenti non c'era niente da fare. Non c'era nulla da fare. Adesso quindi Maria Stella va meglio? Diciamo, se come lo sento, prendo questo farmaco immediatamente, mi viene e mi dura un pochino. Sì. Però diciamo, confronto una volta, quando avevo i piccoli e così, va un po' va meglio. Un po' meglio. Maria Stella, anche un po' forse merito degli anni, come abbiamo detto in apertura, ma professor Frediani, Maria Stella ci dà forse un'indicazione importante. Molte persone quando hanno il dolore aspettano, invece Maria Stella ci dice: se prendo subito il farmaco il mal di testa dura, l'emicrania dura un po' meno. E questa è un'indicazione che possiamo dare ai nostri ascoltatori? Questa è un'indicazione fondamentale sicuramente, perché un errore che spesso il paziente fa è quello di aspettare, perché dice: ma magari questa volta mi passa, ma devo prendere ancora un altro farmaco, non ne ho voglia, devo sempre prendere qualcosa. E poi alla fine che cosa succede? Che l'attacco di emicrania, se è un attacco di emicrania, raramente passa da solo, per cui alla fine è costretto a prendere non più uno ma due, tre analgesici, e corre il rischio poi di abusare. Quindi sicuramente l'indicazione a prenderlo subito va sottolineata. Questo fa sì che poi si possano prendere anche delle quantità inferiori di farmaco, no? Per cui alla fine prima lo prendi, meno ne prendi. Bisogna naturalmente prendere quello giusto. Il fai da te, abbiamo sottolineato più volte, professor Frediani, curarsi da soli per il mal di testa, parliamo di chi ha l'emicrania in modo abbastanza con attacchi frequenti, alla fine può portare alla cronicizzazione di questo problema. Esatto. Purtroppo questo è un problema molto, molto grosso, perché chi ha l'abitudine di gestire in proprio, senza una guida, senza un consiglio, senza una collaborazione con uno specialista o anche col proprio medico, corre questo rischio di prendere farmaci che molte volte non fanno niente, ma continua a prenderli un po' per disperazione, e poi alla fine, oltre al mal di testa, si ritrova ad avere anche gli effetti collaterali, le complicanze legate ai farmaci che ha preso. Torniamo a parlare di emicrania e delle persone che soffrono di emicrania e sono anche ipertesi. C'è uno studio proprio dedicato a loro, in linea con noi il professor Bruno Trimarco, che è ordinario di medicina interna presso l'Università Federico II di Napoli e presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, ipertensione ed emicrania sono da sempre considerati fattori di rischio per l'ictus. Tuttavia l'associazione delle due patologie nel paziente non è stata mai approfondita. Lo ha fatto di recente uno studio, si chiama Miracles, giusto? Che sì. Ha valutato più un numero importante di pazienti, più di 3.000, ruolati tramite medici di medicina generale, con il coordinamento anche dei centri di ipertensione e dei centri di cefalee. Professore, quale messaggio dobbiamo, sulla base dei risultati che avete ottenuto, che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori che soffrono di, sono ipertesi e hanno attacchi di emicrania? Beh, il messaggio fondamentale è quello di distinguere tra la mal di testa, la cefalea, che è legata spesso proprio alla pressione mal controllata, e l'esistenza dell'emicrania come patologia associata, perché sì. Quello che questo studio ha fatto vedere è che 2 ipertesi su 10 sono affetti contemporaneamente da emicrania, quindi la loro sintomatologia non è legata esclusivamente alla pressione alta, ma è legata invece ad una patologia diversa che è l'emicrania. Ed è importante che venga diagnosticato, perché il rischio di questi pazienti, cioè la probabilità che queste persone hanno di sviluppare un evento cardiovascolare, soprattutto l'ictus, è maggiore. Quindi devono essere curati in maniera particolare. Quindi questa è la raccomandazione. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Arrivederci, grazie a voi. Professor Frediani, allora, occupiamoci della nostra emicrania. Abbiamo detto no alla cura fai da te, ma l'emicrania non si cronicizza dall'oggi al domani. Ci sono dei segnali che possono indurci a capire che la nostra emicrania si sta aggravando? Sicuramente. Il paziente emicranico sa che quando incomincia a soffrirne può avere un attacco sporadicamente, una volta al mese. Quando però questi attacchi incominciano a ripetersi con regolarità, incominciano a diventare una volta alla settimana, due volte alla settimana, incomincia a fare magari due conti e vedere quanti farmaci è costretto a prendere, quanti analgesici deve portarsi dietro per controllarlo, ecco, allora è importante cercare di capire che cosa scatta in queste situazioni, in questi momenti. Bisogna sentire il medico, ovviamente, e il referente non può che essere il medico di famiglia, il medico di medicina generale. Certo. Quantomeno per discutere con lui, fargli presente il problema e capire se è il caso di fare un approfondimento, se è il caso di andare in un centro, se è il caso di cambiare prodotto e definire meglio la situazione. Non ci sono solo farmaci, così rispondiamo anche agli ascoltatori che mi stanno scrivendo, ma non voglio imbottirmi di pillole per venire a capo della mia emicrania, che cosa si può fare? Perché ci sono degli studi che hanno evidenziato anche l'efficacia di altri metodi non farmacologici. Professor Frediani, prima di passare alle novità terapeutiche con farmaci. Certo. Esistono delle terapie non farmacologiche, anche se in realtà ne vengono impiegate tantissime, ma di realmente efficaci con una documentazione scientifica ben fatta, approfondita, studiata, eccetera, non ce ne sono molte. Io ne cito due che sicuramente possono essere utili, sono l'agopuntura, sì, e il biofeedback. Cioè? Che cos'è il biofeedback? Grazie. Il biofeedback è una metodica di addestramento al rilassamento. Mm. Uno può dire, va bene. Dove si impara? Cosa si impara? Sì. Mi va bene quando sono, se mi rilasso, mi va, sì, bene quando sono stanco o stressato. Non solo, sono parecchi studi molto ben condotti che documentano come il biofeedback attraverso una macchinetta. Adesso la sto semplificando, ma per dare l'idea, sì, una macchinetta che ti informa su alcune funzioni del tuo corpo che normalmente non conosci. Ad esempio la sudorazione, la temperatura cutanea, la frequenza cardiaca, il respiro e così via, la contrazione muscolare, ti informa di qual è il tuo stato e attraverso degli esercizi di rilassamento tu vai a toccare proprio a quei punti. Esatto, vai a intervenire riducendo magari la frequenza cardiaca, riducendo la temperatura cutanea o la sudorazione, e questo si accompagna ad un miglioramento non soltanto del mal di testa legato a tensione, a contrazioni muscolari e quant'altro, ma anche un miglioramento degli attacchi emicranici veri e propri. Quindi nei centri di cefalee danno anche queste indicazioni, non solo pilloline? Assolutamente sì, non in tutti i centri vengono condotte queste terapie perché sono complesse, lunghe, ma in pazienti selezionati, e mi riferisco soprattutto agli adolescenti, riagganciandoci al primo ascoltatore, sì, funzionano e funzionano molto bene. Professore, invece per quanto riguarda le novità, tra virgolette, che possono aiutare i pazienti con attacchi frequenti, quindi c'è un profilo particolare dell'emicranico che viene trattato con farmaci che prevengono da prendere prima dell'attacco o al bisogno, che cosa c'è di nuovo, di interessante, insomma, dove avete svoltato, come si dice? Sicuramente la pietra miliare è stato il sumatriptan, come abbiamo già sentito prima da un'ascoltatrice. Il sumatriptan è stato il capostipite di una famiglia, i triptani, che ha rivoluzionato il modo di curare il mal di testa. Perché? Perché sono delle molecole sintetizzate in base a quelle conoscenze sulla serotonina di cui parlavamo poco fa. Sì. È un farmaco specifico, è un farmaco estremamente maneggevole, è un farmaco che non ha grossi effetti collaterali e che se preso con la dovuta cautela, quindi comunque sotto controllo medico, dà dei risultati veramente notevoli, del tipo in pochi minuti il mal di testa può passare. Poi è chiaro che varia da paziente a paziente. Certo. Questo però è successo già un po' di tempo quasi fa. 20 anni fa, ne sono nati altri farmaci, attualmente sono allo studio e già con dei risultati molto più che promettenti dei nuovi farmaci che interferiscono non più con la serotonina ma con altre sostanze tipo la sostanza P, il CGRP e quant'altro, senza entrare in dettaglio, ma comunque sostanze che sono sempre implicate in quel circuito di controllo del dolore. Che abbiamo che ha spiegato lei all'inizio, certo. Io volevo salutare il dottor Varnier che ci ha raggiunto. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Specialista in medicina dello sport e cardiologia, lavora presso l'unità operativa complessa di medicina dello sport dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Perché in chiusura, dottore, io volevo ho chiesto la sua collaborazione perché molte persone che soffrono di emicrania smettono di fare sport, vuoi perché lo sport scatena l'attacco, vuoi perché dopo aver fatto sport arriva invece questo dolore pulsante, martellante, come ci ha descritto il professor Frediani. Sappiamo che però lo sport è un farmaco meraviglioso, ne abbiamo parlato tante volte. Abbiamo un minuto prima di prima, va bene, cerchiamo di essere rapidi. Sì, per dire che cosa si deve fare, rinunciare allora, invito, allo sport? Invito i pazienti che soffrono di emicrania e cercano di praticare un'attività sportiva, non mollate, insistete, l'esercizio fisico è estremamente importante, non solo per gli effetti metabolici e cardiovascolari che ne conosciamo, ma pare che abbia delle buone indicazioni, possa essere anche una medicina per la vostra, per il vostro problema, per la vostra malattia. Dati recenti di Göteborg dicono che soggetti che soffrivano di 2-8 episodi di emicrania al mese, sottoposti a un training di 12 settimane, hanno migliorato notevolmente, hanno ridotto sia la frequenza degli attacchi, sia l'intensità dei sintomi e soprattutto abbiano anche ridotto l'assunzione dei farmaci. Come fare lo sport, se c'è un tipo di sport, oppure il modo in cui non lo facciamo per evitare che la testa diventi un inferno? Sono dati recenti, quindi linee guida ancora non ne sono state fatte. Possiamo dare dei consigli e dire sostanzialmente quali sono gli sport eventualmente da evitare. Sicuramente sono sconsigliabili tutti quegli sport, esercizi fisici che prevedono sforzi estremamente intensi, strenui, con contrazioni isometriche che impediscono alla persona di respirare liberamente durante lo sforzo. Sì. Poi anche gli sport praticati cioè in altitudine, pare che l'altitudine abbia un evento scatenante su questi effetti. Poi ci sono delle norme igieniche importanti da seguire sia prima di iniziare l'attività fisica che anche durante. Prima l'attività fisica, cioè la cura dell'abbigliamento che non deve essere troppo pesante. Dottore, siamo quasi in chiusura, quindi abbigliamento, ok, abbigliamento, ma ci torniamo. L'abbigliamento leggero, esercizio fisico, un breve training, un breve riscaldamento prima dell'esercizio, un po' di stretching, se volete fare un po' di jogging, prima camminate piano, poi sempre di più, poi aumentate. Non dimenticate che l'idratazione è estremamente importante. E dopo l'esercizio fisico? Intenso, sì. E poi alla fine un deriscaldamento, cioè praticamente un ritornare alle condizioni di base gradualmente. Adesso io invece velocemente devo salutarvi, saluto e ringrazio il professor Frediani, il dottor Varnier che ci hanno dato una mano. Se volete scriverci essere benessere @radio24.it, a domani dopo il GR delle 11.